sotto un raggio di luna, lui ci saluto liberando dal cielo pozioni d'amore. Una pioggia misteriosa arriva. Era bello, era bello, era bello davvero incontrarti dal nulla e baciarti sul serio. Sulla spiaggia piove qua giù, piove, ci tocchiamo dentro il mare, piove qua giù, piove, noi balliamo sulla spiaggia, piove qua giù, piove, ci tocchiamo dentro il mare, sotto un tetto di stelle, respiriamo la pioggia. Sulla spiaggia e piove qua giù.